Perché dite come potrei non conoscerlo? Ma perché è mio fratello, rispose negligentemente il signor di Charlus, lasciando Madame Verdurin immersa nella stupefazione e incerta se il suo ospite si prendesse gioco di lei, fosse un figlio naturale o un figlio d'altro letto. L'idea che il fratello del duca di Grammont potesse chiamarsi barone di Charlus non s'affacciò alla sua mente. Si diresse verso di me. Ho sentito poco fa che il signor di Cambremer vi invitava a pranzo. Per me, capite bene, la cosa è indifferente, ma nel vostro interesse spero che non ci andrete. Prima di tutto è infestato da noiosi. Se vi piace pranzare con dei conti e marchesi di provincia che nessuno conosce, sarete servito a meraviglia. Credo che sarò costretto ad andarci una volta o due. Non sono molto libero del resto perché ho una giovane cugina che non posso lasciare sola. Mi sembrava che questa pretesa parentela semplificasse le cose per uscire con Albertine. Ma con i Cambremer, dal momento che gliel'ho già presentata, fate come volete. Io vi avverto, è terribilmente malsano. Quando vi sarete buscato una flussione di petto o i cari piccoli reumatismi casalinghi, vi sentirete più contento? Ma non è un posto bellissimo? Sì, volendo. Ma vi confesso con tutta franchezza che preferisco 100 volte la vista che si ha qui su questa valle. Comunque, non avrei preso l'altra casa neanche se ci avessero pagati, perché l'aria di mare è fatale al signor Verdurin. Per poco che vostra cugina sia nervosa, ma del resto voi stesso siete nervoso, mi pare. Avete delle soffocazioni. Bene, vedrete. Andateci una sola volta e non dormirete per una settimana, ma non è affar nostro. E senza pensare quanto la nuova frase potesse contraddire le precedenti, se vi diverte vedere la casa, che non è male, bella è dir troppo, ma insomma divertente, col vecchio fossato, il vecchio ponte levatoio, dal momento che dovrò pur cedere e andarci a pranzo una volta, ebbene, venite lo stesso giorno. Cercherò di portare tutta la mia piccola cerchia, sarà simpatico così. Dopodomani andremo a Aramboville in carrozza. La strada è magnifica, c'è un sidro delizioso. Venite, no? Ci sarete anche voi, Brichot, e voi, Ski. È una gita che del resto mio marito deve aver già organizzata. Non so bene chi siano i suoi invitati. Voi, signor di Charlus, siete fra quelli? Il barone, che udì solo quest'ultima frase e ignorava che si stesse parlando di un'escursione a Aramboville, sussultò. Strana domanda, mormorò con un tono beffardo da cui Madame Verdurin si sentì urtata. D'altronde, mi disse, in attesa del pranzo Cambremer, perché non la portate qui vostra cugina? Ama la conversazione? La gente intelligente? Simpatica? Sì? E allora bene, benissimo, venite con lei. Non ci sono solo i Cambremer a questo mondo. Capisco che siano felici di invitarla, non riescono mai ad avere nessuno. Qui troverà aria buona e sempre uomini intelligenti. In ogni caso, confido che non mi mancherete mercoledì prossimo. Ho sentito che avevate una merenda a Rivebelle con vostra cugina, il signor di Charlus e non so chi altro. Dovreste fare in modo di trasportare tutto qui. Sarebbe carino, no? Un piccolo arrivo in massa. Le comunicazioni non potrebbero essere più facili. Le strade sono incantevoli. Se occorre vi manderò a prendere. Non capisco del resto cosa possa attirarvi a Rivebelle. È infestato da gente equivoca. Forse credete alla reputazione della focaccia. Il mio cuoco la fa molto meglio. Ve ne farò mangiare io di focaccia normanna, quella vera, e certe frolle, non vi dico altro. Ah, se poi tenete proprio alle porcherie che rifilano a Rivebelle, non so che farci, caro signore, non voglio assassinare i miei invitati, io, e se anche volessi, il mio cuoco si rifiuterebbe di fare quelle cose innominabili e cambierebbe casa. La focaccia che fanno là, non si sa con cosa la facciano. Conosco una povera ragazza alla quale ha provocato una peritonite che se l'è portata via in 3 giorni. Aveva solo 17 anni. È triste per quella poverina di sua madre, aggiunse Madame Verdurin con un'espressione malinconica, sotto le sfere delle sue tempie cariche d'esperienza e di dolore. Ma in fin dei conti andate pure a far merenda a Rivbell, se vi diverte farvi rovinare e gettare il denaro dalla finestra. Soltanto ve ne prego, è un incarico di fiducia che vi do. Quando saranno le 6, portate tutta la compagnia qui da me. Non lasciate che nessuno se ne torni a casa per conto suo, allo sbando. Potete portare chi volete. Non lo direi a chiunque, ma sono sicura che i vostri amici sono simpatici. Vedo subito che ci capiamo noi due. A parte il piccolo gruppo, verranno per l'appunto delle persone molto gradevoli mercoledì. Conoscete la giovane Madame de Longpont? È incantevole e piena di spirito, per niente snob. Vi piacerà molto, vedrete. E anche lei deve portare tutta una banda d'amici, aggiunse Madame Verdurin, per mostrare che era una cosa che si faceva e incoraggiarmi con l'esempio. Vedremo chi saprà imporsi meglio e porterà più gente, fra Barbe de Longpont e voi. E poi credo che debbano portare anche Bergotte, disse con aria vaga. La partecipazione di quella celebrità essendo resa troppo improbabile da una notizia apparsa nei giornali di quel mattino, secondo la quale la salute del grande scrittore destava le più vive preoccupazioni. Insomma, vedrete che sarà uno dei miei mercoledì più riusciti. Non voglio che ci siano donne noiose. Del resto, non giudicate da quello di stasera. Era un vero fallimento. Non protestate, non potete esservi annoiato più di me. Io stesso ho trovato che era un mortorio. Non sarà sempre come stasera, sapete? Del resto, lasciamo perdere i cambrièmes che sono impossibili, ma ho conosciuto persone dell'alta società che passavano per gradevoli. Ebbene, in confronto al mio piccolo gruppo, erano inesistenti. Vi ho sentito dire che trovavate intelligente Swan. Prima di tutto, penso che sia parecchio esagerato, ma anche senza parlare del carattere dell'uomo che ho sempre trovato profondamente antipatico, sornione, subdolo, l'ho avuto spesso a pranzo il mercoledì. Ebbene, chiedete pure agli altri, anche rispetto a Brichot, che non è certo un'aquila, che è un buon professore di liceo, al quale ciò nonostante sono riuscita a schiudere le porte dell'Institut, Swan scompariva. Era d'uno smorto. E poiché manifestava un parere contrario, è così. Non voglio dire niente contro di lui dal momento che era vostro amico. Del resto vi voleva molto bene. Mi ha parlato di voi in un modo delizioso, ma chiedete agli altri se durante i nostri pranzi ha mai detto qualcosa di interessante. È pur sempre la pietra di paragone. Ebbene, non so perché, ma Swan da me non figurava, non rendeva, e con tutto questo, quel poco che valeva l'ha preso qui. Ribadii con fermezza che era molto intelligente. No, ne eravate convinto solo perché lo conoscevate da molto meno tempo di me. In fondo aveva ben poco spessore, me mi annoiava a morte. Traduzione, andava dai La Tremoglie e dai Guermont e sapeva che io non ci andavo. E posso sopportare qualsiasi cosa, ma non la noia, quella proprio no. L'orrore della noia era adesso, in Madame Verdurin, la ragione delegata a spiegare la composizione del piccolo clan. Non riceveva ancora duchesse perché era incapace di annoiarsi, come uno non fa una crociera a causa del mal di mare. Io riflettevo che quel che diceva Madame Verdurin non era del tutto sbagliato. E mentre i Germain avrebbero dichiarato che Brichot era l'uomo più stupido che avessero mai incontrato, io restavo incerto se non fosse in fondo superiore, se non allo stesso Swan, perlomeno a quanti possedevano lo spirito de Guermont e il buon gusto di evitare, il pudore di arrossire delle sue pedantesche facezie. Me lo chiedevo come se la natura dell'intelligenza potesse venire in qualche modo chiarita dalla risposta che mi sarei data. E con la serietà di un cristiano sotto l'influsso di Port Royal che si pone il problema della grazia. «Vedrete voi stesso», continuò Madame Verdurin, «quando si ricevono persone dell'alta società insieme a persone davvero intelligenti, persone del nostro ambiente, è allora che le si capisce. L'uomo di mondo più spiritoso, nel regno dei ciechi, non è più che un orbo qui da noi. Per giunta mette a disagio gli altri, che perdono la loro scioltezza. Tanto che mi sto chiedendo se, invece di tentare fusioni controproducenti, non mi converrà fare delle sere soltanto per i noiosi, in modo da poter godere appieno del mio piccolo nucleo. In conclusione, verrete con vostra cugina. È deciso. Bene, qui almeno avrete da mangiare tutte e due. A Féterne si soffre la fame e la sete. Ecco, per esempio, se vi piacciono i topi, andateci subito, sarete servito a puntino. E vi terranno finché vorrete. Comunque morirete di fame. Io quando ci andrò, mangerò prima di partire. E perché sia più allegro, dovreste passare a prendermi. Faremmo una merenda robusta e ceneremmo al ritorno. Vi piacciono le crostate di mele? Bene, il nostro cuoco le fa come nessun altro. Vedete, avevo ragione a dire che siete fatto per vivere qui. Perché non venite ad abitarci? C'è molto più posto di quel che sembra, sapete, qui da me. Non lo dico perché non voglio attirare i noiosi. Potreste stabilirvi qui con vostra cugina. Godrebbe di ben altra aria che a Balbec. Io sostengo che con quest'aria si guariscono gli incurabili. Parola mia, ne ho guariti, e non ora soltanto. Perché ero già stata vicinissimo a qui, in passato. Una casa che avevo scovata io, mi costava un pezzo di pane e aveva ben più carattere della loro raspellière. Ve la mostrerò se faremo qualche passeggiata. Però devo ammettere che anche qui l'aria è davvero tonificante. Ma non voglio parlarne troppo. Non vorrei che i parigini perdessero la testa per il mio angolino. È sempre stato la mia risorsa. Insomma, ditelo a vostra cugina. Avrete due belle camere sulla valle. Vedrete cos'è la mattina il sole attraverso la bruma. E chi è quel Robert de Saint-Loup di cui parlavate? Chiese con aria preoccupata, perché aveva sentito che dovevo andare a trovarlo ad Ancières e temeva che per causa sua potessi staccare. Portatelo qui piuttosto, se non è un noioso. Ne ho sentito parlare da Morel. Mi sembra che sia un suo grande amico, aggiunse Madame Verdurin, mentendo spudoratamente dal momento che Saint-Loup e Morel ignoravano l'esistenza l'uno dell'altro. Ma avendo sentito che Saint-Loup conosceva Charlus, pensava che fosse tramite il violinista e voleva mostrarsi al corrente. Non studia medicina per caso o letteratura? Se avete bisogno di raccomandazioni per qualche esame, sapete che Cottard può tutto e io gli faccio fare quel che voglio. Quanto all'Académie, in seguito perché immagino che non abbia l'età, dispongo di parecchi voti. Il vostro amico sarebbe fra gente conosciuta qui e forse gli piacerebbe vedere la casa. Non è che sia uno spasso, Doncier. Insomma, fate come credete, come vi parrà meglio, concluse senza insistere, per non aver l'aria di voler conoscere della nobiltà e perché la sua pretesa era che il regime sotto il quale faceva vivere i fedeli, la tirannia, fosse chiamato libertà. «Ma che cos'hai?» disse, vedendo il signor Verdurin andarsene verso la terrazza di legno che si stendeva su un lato del salotto a picco sulla valle con i gesti d'impazienza d'un uomo che soffoca di rabbia e ha bisogno d'aria. «Saniette t'ha fatto arrabbiare di nuovo? Ma lo sai che è un idiota? Sappiti regolare, non ridurti in questo stato. Non mi piace», aggiunse rivolgendosi a me, «perché gli fa male, lo congestiona. Ma bisogna anche dire che certe volte ci vuole la pazienza d'un santo per sopportare Saniette. E soprattutto bisogna ricordarsi che, ricevendolo, si fa un'opera di carità. Per quanto mi riguarda, confesso che il fulgore della sua stupidità serve piuttosto a divertirmi. Penso che abbiate sentito, dopo pranzo, la sua battuta «Non me la cavo a whist, ma me la cavo al pianoforte». Niente male, vero? Oltre ad essere geniale, è anche menzognera, perché lui non conosce una cosa più dell'altra. Ma mio marito, sotto le sue rudi apparenze, è molto sensibile, molto buono. E l'egoismo di Saniette, sempre preoccupato dell'impressione che farà, lo esaspera. Andiamo, mio caro, calmati. Sai bene, Cotard te l'ha detto che fa malissimo al tuo fegato. E poi sono io a farne le spese, aggiunse Madame Verdurin. Domani Sagnetta arriverà qui con la sua piccola crisi di nervi e di lacrime. Povero uomo, è molto malato. Ma insomma non è una buona ragione per ammazzare gli altri. E poi anche nei momenti in cui sta peggio, in cui si vorrebbe compiangerlo, la sua stupidità ti impedisce di commuoverti. È veramente troppo stupido. Basta che tu gli dica con assoluta cortesia che queste scene vi fanno troppo male a tutte e due, che eviti di tornare. Siccome la cosa di cui ha più paura, vedrai che avrà un effetto calmante sui suoi nervi, suggerì Madame Verdurin al marito.